L'essere umano non è nato per essere solo. Quando Dio disse «non è bene che l'uomo sia solo», ideò il principio esistenziale della propria creatura. Altro non poteva essere, perché nella divinità creatrice dell'essere umano, cioè nel Dio dei cristiani, sussistono tre persone aventi tra loro una loro specifica relazione, quale paterna, materna e figliolanza. Le relazioni familiari umane paterna, materna e di figliolanza non sono altro che un debole e imperfetto riflesso della natura divina. Proprio perché l'essere umano è principalmente un essere sociale, il singolo credente dell'antico patto, si sentiva di appartenere al popolo di Israele, un popolo formatosi con la cultura del Dio Trino. E per questo si esprimeva principalmente al plurale. Per il singolo ebreo, la propria appartenenza alla nazione che Dio si era formata era più importante rispetto alla sua relazione con Dio. Se il popolo gioiva, il singolo ebreo ne gioiva. Se il popolo soffriva, ne soffriva. Proprio per questa partecipazione e identificazione, nel loro linguaggio i profeti non sempre facevano differenza tra le vicende della loro vita personale e le esperienze del popolo di Israele. Un esempio ci è fornito dal profeta Geremia nel suo libro delle Lamentazioni, il quale è percorso da un solo tema conduttore: la sofferenza. Nel testo difficilmente si riesce a tracciare una linea di demarcazione fra il dolore del popolo e quello del profeta. Quando Geremia scrisse: «Rivi d'acqua scorrono dai miei occhi per la rovina della figlia del mio popolo. Il mio occhio versa lacrime senza smettere, senza interruzione». Lam 3, 48-49. Si riferiva a se stesso oppure alla città di Gerusalemme? Di se stesso Geremia scrisse nel suo libro prima ancora che la città di Gerusalemme fosse rasa al suolo e bambini vecchi e donne fossero massacrati. O fosse la mia testa una sorgente d'acqua e i miei occhi una fonte di lacrime, perché pianga giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. Geremia 9, 1. Perciò è più che lecito pensare che nello scrivere le cinque lamentazioni Geremia si riferisse al popolo di Israele, senza però essere del tutto esente da questa esperienza, perché il volere di Dio è che i suoi servi e profeti realizzino ciò che predicano. Il loro messaggio rispecchia la loro stessa vita, la loro vita è il loro messaggio. Del resto, tale concetto lo intravedo anche nell'asserzione di Paolo. Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. 1 Corinzi 9 e 14. In genere, tale ordine è attribuito al sostentamento, ma pure non vi è nulla di più conforme alla verità se non vedervi l'ordine di vivere ciò che si predica. Sentirsi parte di una comunità significa anche vivere in armonia con la comunità dei credenti. Questa verità non deve però offuscare o far tacere un'altra verità, cioè quella dell'individualità del credente. È vero che esistono i numeri 10, 100, 1000, 10.000, ma per formare tali numeri è necessario che vi siano delle unità singole. Se ci fossero solo degli zero non si formerebbe nessun numero. Così è dell'assemblea dei credenti. È vero che una popolazione è formata da innumerevoli persone, ma solo chi ha posto una fede personale e salvifica in Cristo può far parte di questa assemblea. È vero che come assemblea ci si incontra per lodare Cristo e intercedere, ma altresì occorre una relazione personale con Dio per poterlo fare. Non è il grande numero di individui che permette ad una persona di entrare in contatto con Dio, ma è la sua individualità a poterlo fare. Se è in comunione con Dio, può esprimere la sua comunione con altri credenti. Se non cammina nella luce come Dio è luce, non può avere comunione né con Dio né con gli altri. L'individualità è più importante della comunità. Individualità, ma non individualismo. Il vocabolario definisce l'individualità, quel complesso degli elementi di caratteristica ed esclusiva pertinenza del singolo. Mentre riconosce l'individualismo come quella tendenza a svalutare gli interessi o le esigenze della collettività, in nome della propria personalità o della propria indipendenza, o anche del proprio egoismo. Un atteggiamento filosofico, diretto ad affermare una propria autonomia. Come si comprende, la differenza è enorme. Ogni credente deve vivere da individuo in una comunità. ma nell'esprimersi come tale, non deve cadere nell'individualismo. Cosa comporta in pratica questo atteggiamento? Comporta che nell'esprimere la sua fede deve tenere presente la comunità nella quale vive, e ogni espressione che comporta subbuglio o disarmonia deve essere abbandonata. Perché? Perché la comunità nella quale vive è più importante del suo rapporto con Dio, una verità. Questa, che deve essere compresa, perché altrimenti non è vera. Non è vero che la comunità nella quale vivo è più importante del mio rapporto con Dio, perché se non ho un vero e sincero rapporto con Dio, non posso neppure avere un buon rapporto con la comunità. Ma, in senso sociale, la comunità è più importante del mio rapporto con Dio, perché se io non ci sono, la comunità continua ad esistere. Se invece non c'è la comunità, mi è impossibile esprimere il mio rapporto con Dio collettivamente. In definitiva, il mio essere consapevole della mia individualità mi rende in grado anche di essere cosciente di far parte della comunità, senza essere inghiottito dal collettivismo e, così, spersonalizzarmi. Temo che di queste due verità, cioè della comunità e della individualità, si sia persa al giorno d'oggi l'individualità. Questo succede quando gli individui non sono una entità ben precisa, quando hanno perso la loro peculiare personalità. Non sentendosi qualcuno, devono sentirsi parte di un gruppo. Perché è la collettività a farli sentire qualcuno, cioè importanti. In questo modo, la comunità è più importante delle loro caratteristiche esclusive. Un atteggiamento, questo da lodare, perché assomiglierebbe a quello dei credenti dell'Antico Patto, che si identificavano pienamente con il popolo di Dio, sia nel bene sia nel male se non fosse, che il loro comportamento è il risultato di una mancanza di identità. Non sanno chi sono, in cosa credono, cosa devono fare, e per questo approvano sempre a ciò che fa la comunità. Il fatto è che la comunità è guidata da conduttori spirituali, i quali, vedendo in tali credenti una mancata personalità, anche senza volerlo, cadono in un autoritarismo che la scrittura disapprova. Ad una persona competente con un carattere risoluto, non devi dire cosa deve fare nei minimi particolari, non devi imboccarlo di volta in volta con verità cristiane. A lui bastano alcuni principi, in base ai quali, con la sua individualità, saprà come comportarsi e parlare. Mentre a chi è spersonalizzato, invertebrato, che il dizionario definisce colui che è privo di carattere e di forza morale o mancante di organicità e solidità strutturale, si atteggia come i cani al guinzaglio, costretti ad andare al passo del padrone. La loro mancanza di libertà e personalità favorisce l'autoritarismo. Molto probabilmente è questa la situazione che favorirà l'arrivo dell'Anticristo, cioè quell'uomo che si presenterà con la dolcezza di un agnello, mentre avrà intenzioni diaboliche. Egli riuscirà a creare, finalmente per tutti, una coscienza unica, per cui la condotta della comunità sarà la regola assoluta della società. I credenti che non vogliono questioni da affrontare avranno, finalmente, trovato ciò che disperatamente cercavano, la pace. Perciò, ogni individuo che avrà una propria personalità, che avrà il coraggio di esporre le proprie idee, anche quando non concordanti con il resto della collettività, sarà ritenuto un intruso o un antisociale, per cui sarà eliminato fisicamente o moralmente. Essere individui e avere delle caratteristiche esclusive ed esprimerle non è cosa facile. Condivido l'affermazione che solo i pesci vivi vanno controcorrente, la quale si addice molto bene a chi ha e avrà il coraggio di sostenere una verità, anche se tutti dicono il contrario. Esprimere la propria individualità e personalità costa, mentre la comunità in genere chiede solo uniformità. Da una lettura attenta delle lettere di Paolo si nota come egli con saggezza sia riuscito a separare la Chiesa o la collettività dalla sua individualità. In merito al pane per la cena del Signore dice: «Noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo», mentre per lo Spirito Santo dice: «Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo». L'identificazione di Paolo con la Chiesa di Cristo è completa. Tuttavia, quando parla di sé, afferma: ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Galati 6, 149. E per quanto riguarda i cibi, Paolo afferma: io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Romani 14 e 14. Dunque, quando si trattava di verità generali includenti la Chiesa, Paolo si associa; quando invece si tratta della sua vita privata di cristiano e delle proprie convinzioni, Paolo si preoccupa di specificare che si tratta di sue opinioni e prese di posizioni. Ma vi è ancora di più. Come gli altri apostoli, Paolo è stato appartato per predicare il Vangelo di Cristo. Ma anche in questo frangente Paolo è arrivato ad un discorso che potrebbe anche essere ritenuto settario se non capito. Quando disse nella lettera ai Romani: Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo, Romani 2.16, non voleva intendere che il suo messaggio fosse unico, ma solamente sostenere che lui si disassociava dai messaggi, o Vangeli, che non erano conformi alla verità. Se così era 2000 anni fa, cosa direbbe Paolo oggi? Così è possibile sentirsi uniti e legati ad una comunità per il percorso cristiano, ma, come individuo, sentirsi separato a causa del Vangelo che si presenta. Una cosa è vivere nella comunità, altra è il tuo rapporto con Dio. Non c'è chi è persona usata da Dio che non abbia avuto il suo rapporto personale, intimo e segreto con Cristo, anche se faceva parte di una comunità più o meno fedele alla verità. E bene, è giusto far parte di una chiesa, ma non è giusto sentirsi parte della chiesa solo per avere una identità e perdere poi la propria individualità di fede e di persona. Paolo parlava di una comune fede, Romani 1.12, Tito 1.4, che poteva edificarlo, e non di una fede qualsiasi. Nella mia esperienza cristiana mi sono reso conto di quanta poca fede ci sia in comune con altri figli di Dio. E questo perché ho preso coscienza che in genere i credenti hanno una fede comunitaria, senza aver accertato le loro convinzioni. Per loro l'importante è appartenere alla comunità, non avere il giusto rapporto con Dio, basato su un'esatta dottrina. Una situazione che mi ha spronato a esaminare la mia fede, se sia della comunità o individuale. E questo perché, come sta scritto, ognuno di noi dovrà rendere conto di se stesso davanti a Dio, e non della comunità. Febbraio 2010. Ellero.